A Star Trek sono le ore 22. Sembra di essere, insomma, quelle orari da radio già preconfezionati, non so, tipo computer. Sono le ore 22. Buona serata a tutti. A parte gli scherzi, siete sempre all'ascolto di Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Io sono Andrea. Rimarremo insieme ancora per 15 minuti perché non ho voglia, insomma, di staccarvi troppo, quindi preferisco essere in onda solo 15 minuti, dove in questo periodo vi propongo alcune delle mie canzoni preferite di sempre. Questo viaggio inizia magari negli anni 70 con le canzoni classiche di musica, non so, magari rock, pop, dance, ma possiamo anche introdurre dei brani di musica, non so, magari io le chiamo il beat di Cinecittà. Praticamente sono le colonne sonore che negli anni 70 e anche negli anni 80 accompagnavano molte pellicole nostrane. Tanto per intenderci, mi riferisco, non so, alla musica di Piero Piccioni, di Ennio Morricone, anche il maestro Pregadio, non so se lo ricordate. Sapete, no, quando c'era la corrida di Corrado c'era il maestro Pregadio. Ebbene sì, negli anni 70 anche lui si cimentò alla produzione di colonne sonore di film, scusate. Ecco, c'è spazio anche per lui, come si può dire. Ebbene, Star Trek è un viaggio veramente virtuale dove c'è di tutto. Ah, ecco, immaginavo. E soprattutto arriva di tutto, eh. Vediamo un po' che è salito a bordo dell'astronave Enterprise questa sera. Sono proprio curioso, ogni tanto ci vengono a trovare degli ospiti. Vediamo un po' che è salito a bordo. Ciccio, Aschepio finisce! Grandissimo, veramente era Franco Franchi. Adesso ti metto a posto io, adesso metto a posto Franco e Ciccio. Ecco, bene, visto che sono venuti a trovarci qua sull'astronave Enterprise, leggiamo proprio qualcosa a proposito di loro e poi ci ascoltiamo un disco che è una colonna sonora di uno dei loro tanti film che hanno girato. Facciamo una piccola storia di questo grande duo comico anni 70. Franco e Ciccio, ovvero Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, è stato un duo comico italiano che ha goduto di particolare notorietà negli anni 60 e 70. I due attori hanno interpretato, pensate un pochino, insieme 116 film, molti dei quali come protagonisti assoluti, ed altri a fianco di grandi attori come Totò, Domenico Modugno, Vittorio Gassman e Buster Keaton. La loro collaborazione inizia nel 1954 e si conclude con la morte di Franco Franchi nel 1992. Al cinema apparivano insieme dal 1960 con il film Appuntamento a Ischia, in cui furono lanciati da Modugno e da Mario Mattioli. Nel 1984, con Caos, con varie interruzioni negli anni 70, tra il 1973 e il 1975 e 80. Infatti, magari i fans lo ricordano, proprio negli anni 70 c'è stata un'interruzione della loro carriera artistica dove Franco Franchi e Ciccio Ingrassia hanno, diciamo così, interpretato dei film come attori singoli. Tra l'altro, Franco Franchi aveva fatto un film molto bello, se non erro nel 1974, che era Ultimo Tango a Zagarolo, era praticamente un rifacimento di Ultimo Tango a Parigi. Ebbene, purtroppo l'artista, essendo, diciamo così, un artista molto, diciamo, riservato e anche legato magari a certi, come potremmo dire, a certi schemi, magari, non so, religiosi, molto, molto credente, si è pentito di aver girato questa pellicola, perché lui diceva: io e Ciccio, quando abbiamo lavorato, non abbiamo mai girato pellicole, lui le definiva volgari o magari erotiche. Però questo Ultimo Tango a Zagarolo a me è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, lo potete magari cercare su YouTube. E peccato che lui ha denigrato questa pellicola, perché ha regalato veramente una prova d'attore immensa, veramente molto bravo. E poi, insomma, li abbiamo ritrovati anche negli anni 80 in televisione, spesso a condurre delle varietà sia dalle reti Mediaset che sia anche nella Rai. Visto che abbiamo parlato di questi due comici che, tra le altre cose, come ben sapete, hanno ricevuto sempre delle aspre critiche, hanno definito i loro film di serie B, dopo le loro morte, come spesso accade, sono stati rivalutati anche dai critici, magari quelli più agguerriti, che diciamo spendevano sempre delle brutte parole per le loro pellicole, che però fanno sempre ridere, fa sempre piacere rivederle, perché nei loro film c'è una certa tenerezza, una certa dolcezza che magari difficilmente si trova e si riesce a ricercare nelle pellicole nostrane. Facciamo proprio un omaggio a questo grande duo comico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Ascoltiamo una colonna sonora di un loro film. Grandissimi veramente, li ricordiamo così anche noi qua a Star Trek. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Se passi per il deserto dalle parti dell'Arizona, procurati una corona e preparati a morire. Ci sono due bounty killer nel deserto dell'Arizona, se uno dei due perdona, l'altro non perdonerà. Ciccio perdona, Franco invece no. Ciccio perdona, Franco invece no. Cattivello, ma chi è sa di quel piccoletto? Si dice che dentro al petto ha una pietra e non un cuore. Se cara la tua dollaccia, raccomandati a quello secco, ma tieni ben chiuso il becco se con me vorrai parlare. Ciccio perdona, Franco invece no. Ciccio perdona, Franco invece no. Franco non può. Che Jesse James, Ringo, Django e Johnny Banco sfidarono Ciccio e Franco, vuoi sapere come andò? Secondo la tradizione, coi solide risultati, il lungo li ha perdonate, ma sto fusto li accorciò. Grandissimo, eccoli qua Franco e Ciccio in questa loro colonna sonora di uno dei loro tanti meravigliosi film. Siete sempre qua a Star Trek, Viaggio nella storia della musica, 7 minuti primi dopo le ore 22, sempre in diretta con Andrea. Purtroppo abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere assieme. Sempre a proposito di Franco e Ciccio, tanto per rimanere in tema, sono veramente stati due grandi attori che hanno proprio fatto una gavetta incredibile. Oltre che soffrire la fame, erano tempi che si usciva dalla seconda guerra mondiale e le città erano completamente distrutte. Franco Franchi andava in giro a improvvisare spettacoli nelle piazze, e lo stesso Ciccio Ingrassia. Quindi degli attori che hanno fatto una gavetta oggi veramente impensabile. Oggi sono tutti dotati, sono tutti impostati, sono tutti, diciamo così, con corsi di dizione alle spalle, eccetera, eccetera, però questi erano dei grandi attori che magari non avevano la possibilità di studiare, però, benché avessero, non so, la quinta elementare o la terza media, però erano dei geni assoluti e veramente mi è sembrato giusto ospitarli in modo simpatico, in modo bonario. Ciccio, a schifio finisce! Esatto, esatto. Finisce proprio schifio perché dobbiamo andare avanti. Ragazzi, scusate, ma è arrivato il momento di congedarci, c'è l'ultima canzone. Allora, in scaletta abbiamo Crocodile Rock di Elton John, Barry White con You See the Trouble with Me. Quale devo scegliere? Se volete magari mandarci un messaggino, se siete in ascolto, possiamo in tempo reale decidere che canzone volete ascoltare, o anche tramite email www.andreamangiarotti.com. Ho in scaletta queste due bellissime canzoni, Crocodile Rock di Elton John Barry White, You See the Trouble with Me. Vediamo ancora un minutino se qualcuno ci manda un messaggino o su Spreaker o anche sul nostro sito www.andreamangiarotti.com, anche tramite email. Dai, decidiamo cosa mettere su. Proprio pochi istanti, dai. Tanto vi ricordo che questa trasmissione andava in onda dal 1999 su Radio Inchiesta Vigevano. Il format era sempre questo, si ascoltava musica di oggi, di ieri e anche appunto colonne sonore di film e si parlava di attori, di attrici, di musica, eccetera, eccetera. Non vedo nessun messaggio su Spreaker, vabbè, dai. Come si suol dire, faccio io. Ultimo brano in scaletta, poi purtroppo ci congederemo e ho deciso di scegliere il grande, grandissimo, l'immenso Mr. Barry White con questo brano stupendo, You See the Trouble with Me. 22:10 minuti primi, Star Trek con Andrea, viaggio nella storia della musica, e ora Barry White. I'm like a blind man. Chiamo affettuosamente zio Barry. You said the trouble with me, Barry White. Siamo, ahimè, purtroppo giunti al termine di Star Trek. Abbiamo avuto un sacco di ospiti questa sera. No, ragazzi, ancora il teletrasporto? No. Ma chi è che c'è ancora in onda? Non so, chi è che c'è ancora sulla strada di Enterprise? Sì? La rapia Tapioco! Mancava lui. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Mancava lui, mancava. Mancava proprio lui, va bene, va bene. Prematurata la supercazzola, lo scherziamo, ringraziamo anche il Conte Mascetti questa sera. Insomma, sono venuti a trovarci tanti ospiti illustri qua a Star Trek. Abbiamo fatto una bella monografia dedicata a Franco e Ciccio e purtroppo noi ci salutiamo con la nostra base solita, la nostra base che ascoltate spesso qua a Star Trek. E arrivano anche i miei saluti e ringraziamenti per avermi ascoltato in diretta in questo istante, sono le 22:14 minuti primi. Un saluto doveroso andrà anche a chi ci ascolterà in versione podcast nell'arco delle giornate. Noi ci ritroviamo prossimamente per un altro viaggio nella storia della musica. Io ringrazio tutti ancora una volta. Vi ricordo il mio sito www.andreamangiarotti.com, lì avete la possibilità di interagire col sottoscritto o con i social network oppure direttamente lì nelle mie pagine. Grazie a tutti e ci risentiamo prossimamente. Bye bye.